2 settembre 2016, ore 9 all'ingresso del Tribunale di Torino. Riesame delle misure cautelari per l'irruzione alla Turkish Airlines. Il 21 luglio 2016, 10 compagni e compagni di Torino, Valsusa, Valpellice, Chisone e Cuneo hanno ricevuto l'ordine di presentarsi in commissariato 2 volte al giorno. Loro responsabilità è aver denunciato pubblicamente la politica terroristica di Erdogan e sostenuto la resistenza in Turchia e in Kurdistan. Da subito, come altri a Torino e in Valsusa, hanno deciso di resistere e di violare le imposizioni del Tribunale di Torino. Hanno scelto di non collaborare e di non presentarsi a firmare. È ora di reagire alle politiche repressive che distribuiscono a pioggia misure alternative al carcere per fiaccare i movimenti di lotta. Non sono misure minori, sono la nuova frontiera del controllo sociale a Torino come in tutta Italia. 2 settembre, ore 9 all'ingresso del Tribunale di Torino, ore 16:30 presidio al carcere delle Vallette Capolinea 3.